Le rispondo così: agli inizi di marzo ho fatto in cabina di guida 355 km all'ora da Reggio a Milano. Poi si è fermato, quindi, spero. Mi sono fermato naturalmente lì a Rogoredo. Certo. Rogoredo, parto da lì perché sarà il primo lavoro importante che completeremo a luglio di quest'anno. Apriremo il passante sud di Milano. Lei sa quanto è importante in quella zona, perché a quel punto si possono specializzare le linee tra traffico regionale e traffico invece a alta velocità. Oggi arrivano gli stessi due binari. Questo lo faremo a luglio, con grande beneficio dei pendolari, in particolare quelli che vengono da Pavia Genova e quelli che vengono da Piacenza. Dicembre apriamo due grandi opere, la Milano-Bologna, 2008, dicembre 2008, quest'anno, la Milano-Bologna a alta velocità, e apriremo anche la nuova Milano Centrale completamente restaurata, un primo rilascio l'abbiamo fatto il 18 aprile scorso, ma apriremo anche una seconda grande opera di cui si parla dai tempi di Hitler e Mussolini, forse prima, la nuova linea Bologna-Verona. Ah, il raddoppio del Brennero. Perfetto, tutte e due appartengono al corridoio 1, anche se quella la Milano-Bologna è un ramo del corridoio 1, e nel corridoio 1 consideri che già all'inizio di quest'anno abbiamo aperto fisicamente e commercialmente, lo faremo a giugno, la linea Napoli-Salerno, sono quasi 50 km anche lì, che riportano il sistema alta velocità, alta capacità al sud fino a Salerno, e manterremo anche l'impegno di finire al 2009 dicembre la Bologna-Firenze, che è una linea complicatissima di cui forse la stampa non parla abbastanza, è una meraviglia, nel senso che su 90 km di linea 72 sono i chilometri di galleria e gli altri sono di viadotto, non c'è un pezzo di linea che sia sul normale pezzo di terra come in Spagna e in Francia, questo lo dico naturalmente agli effetti dei costi. L'ultima novità sul corridoio 1 è che il 28 aprile con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, anzi sarà proprio lui che premerà il pulsante per dare avvio alla fresa per il tunnel di esplorazione, un pilot tunnel di esplorazione geologico, che naturalmente sarà il primo passo di costruzione reale del grande corridoio, del grande Brennero da 55 km di lunghezza, una delle grandi gallerie alpine.